cos'è quest'estate di Roberta Giordano. Ben svegliate, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, appunto Roberta Giordano con voi per iniziare questa trasmissione che in realtà è iniziata già da qualche giorno, è una staffetta tra colleghe, questa è iniziato Elisabetta Fiorito, adesso vi accompagnerò io per due settimane e poi ci sarà, cederò il testimone a Deborah Rosciani. Quindi ci chiediamo in questi giorni, ma cos'è quest'estate? Nel senso che intanto vi ricordo che ho cambiato fuso orario, mi ascolterete di solito, qualcuno di voi almeno che ha anche quel tipo di abitudine, la sera alle 21 con effetto notte, vi ricordo che ricomincia poi all'inizio di settembre, ma adesso invece chiediamoci, siamo in estate, che cos'è quest'estate? Naturalmente è un'estate che è caratterizzata, continua ad essere caratterizzata dai grandi flussi migratori, ne abbiamo parlato un po' tutto l'anno, figuratevi d'estate che cosa succede con il bel tempo, e tra l'altro continua soprattutto a esserci in primo piano questa polemica sul codice di comportamento delle organizzazioni non governative, tra quelle che hanno sottoscritto questo codice e quelle come Medici Senza Frontiere, che sentiremo, che invece si sono rifiutati e continuano a soccorrere i migranti e a fare il trasbordo. Ne parleremo perché c'è anche una spaccatura per la prima volta all'interno del governo, in particolare tra il ministro degli interni Minniti e il ministro Delrio dei trasporti, perché riguarda la Guardia Costiera. Però ci sono molti altri argomenti, parleremo anche dei dati molto positivi, piuttosto positivi, del turismo in Italia con Federalberghi, poi di una ricerca, pensate, che parte dallo spazio sull'osteoporosi, perché si può fare anche questo tipo di studio nello spazio con dei flaconcini di sangue di un professore che lo sentiremo da Cape Canaveral, lì dovrebbero essere, quando poi lo sentiremo, le tre di notte o di mattina, insomma da seconda dalla prospettiva dal quale si vede, e ci faremo raccontare che cosa effettivamente si sta facendo nello spazio con la missione di Nespoli per capire anche come prevenire questo problema. E poi siamo in agosto, stare in agosto in città è bello o brutto? Anche lì è una questione di prospettive, no? Per qualcuno la città è più libera, meno inquinata, meno affollata, ci si muove con più libertà, per qualcun altro c'è una grande tristezza, sono due schieramenti opposti. E ricordatevi che su tutti questi temi naturalmente potete intervenire sia attraverso il numero per messaggi WhatsApp, che è 349 238 6666, poi ve lo ripeterò diverse volte, 349 238 6666, e poi però preferirei che interveniste con il numero verde in diretta con le vostre voci all'800 24 00 24, un numero verde quindi gratuito e anche ecologico, così evitate di disperdere idee in altri rivoli, invece vi concentrate qui su ma cos'è quest'estate. 800 24 00 24, tra poco ci saranno i primi ospiti, adesso invece direi di aggiornare chi di voi sta viaggiando. Axerta indaga, documenta, accerta. www.axerta.it vi presenta ma cos'è quest'estate? Mio fratello, che guardi il mondo e il mondo non somiglia a te. Mio fratello, che guardi il cielo e il cielo non ti guarda. Continua ad essere un problema gravissimo quello dei flussi migratori, sia per chi scappa o da guerre, da carestie o comunque da situazioni difficili, sia anche per un paese come il nostro, che si trova da molto tempo a dover gestire quasi praticamente da solo questa situazione sempre più incalzante. Sapete, negli ultimi mesi le polemiche tra il governo italiano e l'Unione Europea. Adesso invece, vi dicevo, particolarmente in primo piano c'è questa polemica sul codice di comportamento che è stato voluto dal ministro dell'Interno Minniti per le organizzazioni non governative, una specie di accordo, insomma, di regole da rispettare dopo le tante polemiche che ci sono state, di possibili connivenze o collaborazioni tra gli scafisti e le organizzazioni non governative. e ci sono però alcune tra queste organizzazioni che non hanno sottoscritto questo accordo, come Medici Senza Frontiere, che sentiremo tra pochissimo. E poi c'è anche una grossa polemica all'interno del governo, scintille nel governo, vedete i titoli dei vari giornali oggi, che riguarda in particolare uno scontro tra appunto il ministro dell'Interno Minniti, che è per la linea dura, nel senso che dice che le organizzazioni non governative che non sottoscrivono questo accordo non possono più fare questa attività di salvataggio dei migranti, e il ministro dei trasporti, che ha pertinenza anche quindi per la Guardia Costiera, Del Rio, che dice no, deve prevalere l'aspetto umanitario. E c'è anche il vice ministro degli esteri Giro, che ha detto ma noi poi questi migranti che vengono riportati in Libia li diamo in mano degli aguzzini. Insomma, quindi la situazione è piuttosto tesa anche all'interno del governo. Prima di passare agli ospiti, vi dico velocemente che è arrivata una notizia che come minimo deprecabile se vera, perché si parla di pompieri volontari che appiccavano incendi per percepire un compenso nel Ragusano. Ci sono 15 indagati, un'intera squadra di vigili del fuoco nel Ragusano, poi magari cerchiamo di sentire qualcuno della squadra mobile per questa indagine. Però torniamo sul tema principale di oggi, vi ricordo che il numero verde per voi per intervenire su questo e gli altri temi di oggi è 800 24 00 24, numero verde, quindi numero gratuito, oppure messaggi al 349-238-6666. Comincio con il salutare Loris De Filippi, presidente dell'organizzazione non governativa appunto Medici Senza Frontiere. Buonasera De Filippi. Buongiorno, salve. Buongiorno, mi scusi, sono abituata a un altro fuso di effetto buongiorno, notte. Buongiorno, aiutato. A tutti gli ascoltatori. Buongiorno. Giusy Nicolini, già sindaca di Lampedusa, membro della direzione nazionale del Partito Democratico, nonché insomma figura che ha vinto diversi premi per l'attività meritevole che ha fatto per tanto tempo. Buongiorno Nicolini, buongiorno, troppo forte buongiorno. Questa cosa. Buonasera. E poi Riccardo Bonaccina, direttore della rivista Vita e Voce da tempo del mondo no profit. Ciao Riccardo, buongiorno. Ciao, buongiorno a tutti. E poi il senatore vice capogruppo della Lega al Senato, Stefano Candiani. Buongiorno anche a lei. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Allora, comincerei a parlare con Riccardo Bonaccina prima di tutto. Riccardo, cosa ne pensi di questo codice di condotta per le organizzazioni non governative? Ricordiamo tra l'altro alcuni dei principali punti di questo codice, per esempio è prevista la polizia a bordo delle navi che prestano soccorso, cioè, questo impegno a riceverli a bordo per il periodo strettamente necessario per possibili richieste da parte delle autorità nazionali e internazionali competenti, no? E poi c'è anche il dover rendere conto con chiarezza e trasparenza sui finanziamenti, chi finanzia queste organizzazioni non governative, e vari altri temi, per esempio la presentazione dell'idoneità a fare questo tipo di attività. E sai che appunto in testa a Medici Senza Frontiere, poi abbiamo sentito anche della nave tedesca nei giorni scorsi, che non vogliono sottoscrivere questo codice. Che ne pensi Riccardo? Sì, beh, credo che più o meno i punti, i 13 punti, quello che più fa discutere è sicuramente il punto 10, che è quello che chiede di ospitare a bordo funzionari di polizia giudiziaria che per raccogliere prove finalizzate alle indagini sul traffico, no? Credo che sia questo, ma poi l'amico di Medici Senza Frontiere sicuramente ne parlare di più, perché per il resto sul dichiarare fonti di finanziamento, diciamo perlomeno le ONG italiane, che poi ricordo alla fine sono due, già per essere iscritte nel registro delle ONG, voglio dire, sono tutti punti che già sono assolti da parte delle ONG, insomma quelle conosciute, quelle italiane. Se posso, è anche prego. Dire la realtà, no, di questa polemica che va avanti da mesi, ma con Zucchero, la procura di Catania, poi adesso con la procura di Trapani. Cioè qui parliamo di 9 ONG e di 13 imbarcazioni. Ecco, tanto per diciamo dare i confini del fenomeno. Quindi invece di parlare di questo traffico di persone umane, di migliaia e migliaia di persone, che muoiono nel Mediterraneo, delle condizioni dei campi in Libia, si parla di 12 imbarcazioni. Mm. Se il mondo è felice di parlare di 12 imbarcazioni, va bene. Adesso vorrei invece interpellare Giusy Nicolini, che ricordava appunto già sindaca di Lampedusa, l'isola che oltre che per le sue bellezze è conosciuta negli ultimi anni anche per essere stata il principale approdo ancora adesso dei migranti. Giusy Nicolini tra l'altro ha vinto diversi premi come quello dell'UNESCO per la pace, però diciamo non è stata premiata nelle ultime elezioni nell'isola. Lei pensa, sindaca Nicolini, che sia dovuto anche alla sua attività comunque di apertura nei confronti dei migranti? Ho vinto i premi per quello, ma non ho perso le elezioni per quello. Le elezioni nei posti piccoli, soprattutto del sud, spesso si perdono perché hai toccato interessi, non hai fatto i favori, volevi cambiare troppe cose. Insomma, sono assolutamente altre le ragioni. Dal resto basta guardare Palermo. Il sindaco Orlando ha vinto nonostante le sue posizioni su questi temi siano all'avanguardia. Ma lei, che appunto per tanto tempo ha svolto questa attività di accoglienza, anche più o meno insomma inevitabilmente costretta, visto che appunto è questo ponte con l'Africa, col Mediterraneo, che cosa può raccontare della sua esperienza, principalmente di questa esperienza, sindaca Nicolini? Io penso che la cosa più significativa che è avvenuta in questi anni di mia sindacatura è stato il fatto che Lampedusa ha smesso di essere sola. Certo, non è stata opera mia, per carità, è venuto qui il Papa, purtroppo c'è stato quel tributo terribile di vite umane, 366 eritrei morti a 500 metri dalla costa di Lampedusa. Fatto che sembra essere stato dimenticato, perché Lampedusa appunto ha smesso di essere l'unico porto per questi disperati proprio nel 2014 con l'avvio di Mare Nostrum, la prima operazione dichiaratamente umanitaria lanciata dal governo guidato a guida PD, proprio perché quel naufragio dimostrò che c'era bisogno di potenziare i soccorsi, di avvicinare i mezzi molto più a sud di Lampedusa, i mezzi di soccorso, perché si tratta di una delle rotte più lunghe, più pericolose, in cui i morti si contano a migliaia, ed erano quasi sempre insieme ai vivi destinati a restare a Lampedusa. Intanto quindi, sì, prego. Dico queste cose perché sembrano essere dimenticate, insomma, perché la guerra alle ONG, questo dibattere sul fattore di attrazione che avrebbero i soccorsi fatti più a sud di Lampedusa, ci fu una fase invece, quella del fine 2013, inizio 2014, che fu sostenuta dall'opinione pubblica, la volontà di agire in maniera più organizzata, è più efficace per salvare vite umane. Anche se adesso è la percezione che la questione sia un po' fuori controllo, e poi anche dopo le polemiche tra il governo italiano e l'Unione Europea, insomma, si capisce che di una grossa mano c'è bisogno almeno di questo. Leggevo qualche vostro messaggio, intanto le telefonate all'800 24 0024, i messaggi, per esempio dice questo ascoltatore, ascoltatrice, che non si firma, non c'è da gestire i flussi migratori, c'è solo da respingere, basta, stop all'invasione, hai capito, giornalista buonista, probabilmente riferito a me evidentemente. Poi un altro che scrive: alle prossime elezioni nazionali il PD farà la stessa fine che ha fatto la Nicolini nelle ultime elezioni comunali, ecco. E poi Alba che scrive: ma che andate a intervistare Medici Senza Frontiere, e perché non dite che, dice Alba, sono tutti, per voi sono tutti migranti o profughi, ma la parola clandestini è sparita. Su questo invece vorrei sentire Loris e De Filippi, visto che siete protagonisti con Medici Senza Frontiere, con la vostra nave, di queste polemiche degli ultimi giorni, no? Sul codice di condotta. Cos'è che più vi pare difficile da accettare di queste 13 regole, Nicolini? Sì, al di là di quello che diceva un po' Riccardo Bonacina, cioè accettare della polizia giudiziaria armata a bordo, c'è ancora una cosa direi che sta a monte, cioè i principi di neutralità, di indipendenza, di imparzialità che sono internazionalmente riconosciuti, sono assolutamente reali e hanno risvolti molto pratici, e noi li difendiamo. Noi crediamo che ci debba essere una distanza tra chi fa un'azione umanitaria, chi va a salvare delle vite umane, e chi ha dei compiti diversi, compiti di polizia investigativa, compiti anche politico-militari, se vogliamo. Ci deve essere una distanza, perché altrimenti miscelare le due cose è molto pericoloso per l'indipendenza e l'autonomia delle organizzazioni non governative. Però De Filippi, lavoriamo in 70 paesi al mondo, e in tutti questi paesi in cui operiamo non accettiamo armi nei nostri progetti, non è mai successo. Per cui chiedersi oggi per quale motivo avere della polizia armata a bordo, quando noi facciamo ovviamente salire la polizia ad ogni sbarco, quindi c'è un rapporto assolutamente chiaro con le forze dell'ordine ad ogni sbarco che facciamo, e ne abbiamo fatti più di 500. Quindi non capiamo effettivamente questa ostinazione a voler mettere forze di polizia, quando da 3 stagioni lavoriamo in perfetta coordinazione con la Guardia Costiera. Tra l'altro, voi avete trasbordato proprio ieri, mi sembra, circa 130 migranti ancora che venivano dalla Libia, li avete trasbordati su una nave della Guardia Costiera, quindi c'è stata una collaborazione in realtà, che è quello che auspica alla fine, negli ultimi giorni, anche il ministro Delrio, in contrasto con il ministro dell'Interno Minniti, no? Non è mai mancata la collaborazione con la Guardia Costiera. Noi abbiamo un rapporto adamantino chiarissimo con loro, che va avanti dall'aprile del 2015. Ma il fatto che salga della polizia giudiziaria con le armi, sono le armi quello che vi... Esattamente, le armi. Perché le armi a bordo, pensate che possa succedere qualcosa con il fatto che siano armati? No, le armi a bordo, ovviamente nella percezione di tutti, il fatto di violare uno spazio, un santuario dal punto di vista umanitario, è un problema, perché se lavoriamo in una situazione come quella del Mediterraneo centrale, in cui non c'è una guerra ma ci sono altissime tensioni. Noi siamo stati attaccati dalla Guardia Costiera Libica l'anno scorso, una corvetta della Marina Militare è stata attaccata dalla Guardia Costiera Libica, ci sono delle fregate militari che potrebbero partire e pattugliare presto, visto che c'è stato l'ok delle due camere davanti alla Libia. Siamo in una situazione molto, molto complessa. E in questo caso dare totale esempio di organizzazione che fa esclusivamente la parte umanitaria e non ha nessun tipo di attività politico-militare a bordo o finalità politico-militare a bordo è importantissimo. Bisogna distinguere le due cose. Noi non critichiamo ovviamente la posizione del governo, ognuno fa le scelte che vuole. Siamo critici nei confronti del fatto che la gestione dei flussi viene affidata in parte alla Libia, che, come diceva prima Bonacina, è un contesto molto complicato, molto difficile, in cui la violazione dei diritti umani è quotidiana. Ognuno fa le sue scelte. Noi facciamo una scelta umanitaria. Se ci sarà impedita in qualche modo, ovviamente faremo dell'altro, chiuderemo le nostre attività. Però la responsabilità poi ovviamente delle eventuali vittime non sarà a carico nostro, ma sarà a carico di chi. Tra l'altro, leggevo poco fa che c'è un'inchiesta a carico di alcuni operatori di Save the Children, un'altra organizzazione non governativa che però ha sottoscritto il codice di regolamentazione. Prima di sentire il senatore Candiani della Lega, volevo sentire Pippo da Genova all'800240024, che è il numero verde per voi ascoltatrici e ascoltatori. Pippo, prego. Buongiorno. Buongiorno. Ma io volevo semplicemente fare due annotazioni. Una è un ringraziamento a quelle organizzazioni che decidono, no, di prendere come riferimento non solo vago umanitario, ma i diritti umani. Cioè, qua si sta dimenticando, a mio avviso, in una logica un po' filantropica, un po' confusa, dove si confonde il traffico con la tratta, tutto quanto, si sta utilizzando solo una logica così umanitaria molto generica. Il fatto che ci siano delle organizzazioni che intervengono in situazioni di questo tipo vuol dire ribadire uno spazio legato ai diritti umani, cosa da cui le politiche italiane ed europee sono sempre più distanti. Quindi un ringraziamento all'organizzazione che, al di là dei propri interessi organizzativi, decidono di prendere questa posizione. La seconda cosa, appunto, è su queste confusioni che ci sono, cioè un'ignoranza dilagante sul fatto esistono dei fenomeni di traffico, di tratta, che la relazione tra i migranti e il trafficante è molto diversa, può avere diversa natura, e quindi mi sembrerebbe utile per comprendere questa cosa e non farla diventare un manifesto ideologico per le istituzioni o per nessuno, chiedere al ministro Minniti, come dire, di essere più specifico nell'analisi dei fenomeni e legare le risposte a una logica e ai principi fondati sui diritti umani, a cui noi siamo tenuti per legge, non è una questione così filantropica o di buonismo. Chiarissimo. Beh, tipo, noi siamo legati a principi e a norme che derivano da nostri impegni istituzionali nei confronti della legislazione internazionale. Pippo, se non sono indiscreta, posso chiederti che lavoro fai? Se posso. Io lavoro per un'organizzazione che non governativa che non si occupa di servizi, no? Che si occupa più di fare formazione. Capito. Grazie Pippo. Pippo, sei stato chiarissimo. Ti ringrazio per il tuo intervento. 800-24-0024, senatore Candiani. Quindi ha sentito le ragioni di, per esempio, di Medici Senza Frontiere, quello che diceva questo ascoltatore. E, tra l'altro, di questi giorni la notizia della cosiddetta nave nera, che segue alcune organizzazioni non governative, una nave messa, diciamo, insieme da alcuni movimenti di destra europei che insomma cercano di contrastare, no, lo sbarco di immigrati, di migranti. La vostra posizione, insomma, della Lega è abbastanza chiara. Come si può trovare una mediazione in tutto questo, Candiani? Di trovare una mediazione tra i diritti civili, i diritti umanitari e però anche, diciamo, questioni legali e di difficoltà di gestione da parte dell'Italia. Guardi, qui non è una questione di trovare una mediazione, è questione di avere delle regole e di farle rispettare. Cioè, quello che sta accadendo è un po' come quel cartello che si trova fuori da qualche bar: per colpa di qualcuno non si fa più credito a nessuno. È evidente che ci sono delle regole di ingaggio che non vengono rispettate, o se preferiamo ci sono dei rapporti tutt'altro che cristallini tra le ONG e chiamiamoli gli scafisti per semplicità, compreso anche questa diatriba che adesso sorge tra Minniti e Del Rio. Non è possibile che ci sia un trasbordo da una nave non governativa o qualsiasi altra nave che non fa soccorso, ricordiamolo. Perché il soccorso si intende nel momento in cui c'è un naufragio. Questi sono ormai dei percorsi organizzati, dove gli scafisti prendono a bordo i migranti, i clandestini migranti sulle coste della Libia, arrivano in un certo punto nel Golfo della Sirte, piuttosto che nel canale di Sicilia o in una parte intorno a Malta, li scaricano sulle navi, li trasbordano sulle navi delle ONG, dopodiché a questo punto ci troviamo anche col paradosso che una nave dell'ONG non viene fatta attraccare, ma vengono trasbordati sulle navi della Marina Militare o della Guardia Costiera e portati nei porti italiani. Se non passa chiaro il messaggio che chi parte clandestinamente, chi viene imbarcato clandestinamente dagli scafisti della Libia, non può arrivare in Italia e viene respinto, non ci sarà alcun blocco che tenga, non ci sarà alcuna riduzione seria dei flussi di migranti. Quello che sta avvenendo in questi giorni, la riduzione dei numeri, non è dovuta all'azione di pattugliamento, ma è dovuta a un'azione fatta dal governo libico, il che mi porta ad essere molto ancora preoccupato, perché vuol dire che si sta innescando un meccanismo, come già avveniva anni fa, dove chi sta dall'altra parte del Mediterraneo, ovvero in Libia, a seconda della convenienza apre e chiude il rubinetto. E su questi tipi di ricatti non ho già avuto abbastanza esperienza. Le questioni sono chiare, ripeto, o si passa un messaggio netto: chi parte e non ha diritto, perché non viene da zone di guerra e non è profugo, ma è semplicemente migrante, viene messo sulle navi, sulle carrette dagli scafisti, non arriva in Italia ma viene respinto, altrimenti tutto il resto è semplicemente, in un modo o in un altro, favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Punto. Allora, ci sentiamo tra pochissimo, prendiamo questa piccola pausa e ritorno con gli ospiti, con le ascoltatrici e gli ascoltatori tra poco. 800 24 0024. Ma cos'è quest'estate? Roberta Giordano sempre con voi, ce lo chiediamo: cos'è quest'estate, dicevo, questa staffetta tra conduttrici. Adesso resterò con voi per due settimane a partire da oggi, e un argomento in primo piano tra i tanti di cui parleremo oggi è quello appunto sempre dei flussi migratori, e in particolare di questa tensione sul codice di comportamento al quale dovrebbero aderire le organizzazioni non governative, quelle che non hanno aderito, e poi anche questa spaccatura all'interno del governo con chi sostiene la linea dura, cioè chi tra le organizzazioni non governative non sottostima sottoscrive questo accordo è fuori dai soccorsi, e chi invece, e questo, in questo caso il ministro dell'Interno Minniti, e dall'altra il ministro dei Trasporti Delrio, che dice no, deve prevalere l'aspetto umanitario. Abbiamo, ve lo ricordo, qui ospiti in collegamento Giusy Nicolini, già sindaca di Lampedusa, Loris De Filippi, presidente dell'organizzazione non governativa Medici Senza Frontiere, che è, diciamo, un po' nell'occhio del ciclone in questi giorni, proprio perché tra quelle italiane e quella che internazionale, anzi, quella che ha detto no, noi non sottostiamo a questo codice, in particolare alla presenza di polizia armata a bordo. Poi c'è Riccardo Bonaccina, direttore della rivista Vita, e il senatore della Lega Stefano Candiani. Ci sono anche le vostre telefonate, naturalmente c'è Andrea da Siracusa all'800240024, numero verde. Andrea? Buongiorno. Buongiorno Andrea. Volevo dirvi, queste persone per il 90% non hanno diritto all'asilo, e questo 90% toglie il diritto a quelle persone, la possibilità a quelle persone che invece hanno diritto all'asilo di essere accolte, di essere aiutate, perché provengono da zone di guerra. Questi si bruciano entro le mani, le dita, per non farsi identificare. Questa è la realtà. Allora, che li riportassero indietro in Libia, li prendiamo a 10 miglia dalle coste libiche e ci facciamo 400 chilometri di mare per portarli da noi ad Augusta. È una follia. Questa è una follia. E togliamo, ripeto, togliamo il diritto ai profughi di guerra di essere accolti degnamente. Questo è il, come dire, il succo del mio intervento. Quindi Andrea, tu dici riduciamo il numero relativamente su quelli che hanno, no, effettivamente diritto. No, li riportassero in Libia, oppure questi Medici Senza Frontiere, perché non se li portano in Francia, visto che loro sono francesi. Vediamo se Macron se li accoglie. Grazie Andrea. Visto che ha chiamato subito in causa Medici Senza Frontiere, De Filippi come risponde, presidente di MF? Siamo francesi, noi siamo italiani, la nostra nave batte bandiera italiana, quindi non diciamo assurdità. Un'altra cosa importantissima è definire il numero di persone che hanno qualsiasi forma di protezione umanitaria che arrivano in Italia ogni anno. Sono più del 66%, cioè non esiste che sono il 10% sono il numero di rifugiati, 10-15% il numero di persone che ricevono lo statuto, ma persone che vengono perseguitate non in modo personale, ma in modo relativo al loro paese, alla loro provenienza, sono tantissime di più, sono il 66%, quindi primo dato. Secondariamente, quello che dicevo prima è quello che sentivo prima dal senatore leghista è incredibile, cioè, noi la invitiamo a venire a bordo con noi. Non esiste, cioè, mi dispiace che è stato coniato il termine taxi del mare, perché non è così, venga con noi. Io per un dato periodo mi sono occupato di del coordinamento sanitario dell'imbarcazione Bourbon Argos. Le assicuro che quello che abbiamo visto lì sono delle cose assolutamente agghiaccianti, persone che muoiono per ipotermia, persone che muoiono in condizioni gravissime, persone che hanno delle ustioni su vaste parti del corpo. Non è quello che descrive lei, non andiamo sulla spiaggia a raccogliere le persone in Libia per riportarle, e questo non glielo diciamo solo noi, glielo può dire la guardia costiera, perché per esempio non si chiede alla guardia costiera che tipo di soccorsi fanno loro, sono esattamente gli stessi che facciamo noi, e le assicuro sono molto lontani dalla descrizione che ha fatto lei. Allora può rispondere il senatore Candiani? Sì, però non equivochiamo, perché la questione non è del come o non come fare i soccorsi in mare. La questione è che ci sono flussi organizzati, cioè questi non sono dei naufraghi, che prendono gente che prende la barca a remi e naufraga in mezzo al mare. Questi sono viaggi organizzati dagli scafisti. E il punto nodale che mette Medici Senza Frontiere in questo momento fuori legge è il fatto di non accogliere i poliziotti a bordo, che siano in grado di identificare e di comprendere qual è il percorso che fanno gli scafisti nel momento in cui scaricano i clandestini, gli immigrati clandestini. È evidente che se non si accetta questa clausola vuol dire che qualcosa c'è da nascondere. No, e lo dico in questo caso all'amico dei Medici Senza Frontiere. È lo stesso concetto per il quale per le piazze dei paesi o per le strade girano i poliziotti armati. Se ci sono delle circostanze che lo richiedono, bisogna potersi difendere. Punto. È una logica molto semplice. Se non si rispettano queste semplici regole, vuol dire incentivare il lavoro degli scafisti, che continueranno a caricare sulle loro carrette, o meglio sui gommoni, continueranno a caricare questi poveri cristi e a portarli dall'altra parte del Mediterraneo, meglio nel Mediterraneo, con la prospettiva di arrivare in un paese nel quale non c'è lavoro, non c'è prospettiva di sviluppo, ma solo prospettiva di delinquenza, perché questo è poi quello che avviene. Giusy Nicolini, già sindaca appunto di Lampedusa, è cambiata tra l'altro l'immigrazione da quando ha iniziato Lampedusa a essere al centro di questi flussi, di questi sbarchi, e sino ad ora? E in che modo? Beh, in un certo senso, io facevo il sindaco quando cominciarono a passare i siriani, da qui non si era ancora aperta la frontiera balcanica. Ho visto arrivare qui i primi siriani, che tra l'altro era la media alta borghesia che lasciava la Siria. Paese in guerra da tanti anni, da 5-6 anni. Era in guerra, sì, da tanti anni. Persone che mi dicevano: sindaco, ma perché io devo stare al centro d'accoglienza, potrei pagare l'albergo? All'inizio c'erano molti somali ed eritrei, e poi c'è stato un aumento di persone che arrivano dalla Costa d'Avorio, dal Ghana, dal Mali. Insomma, è una sofferenza quella dei paesi africani che va crescendo se nessuno fa niente lì. Se tutti pensano che basta cacciare le ONG dal Mediterraneo per mettere fine alle migrazioni forzate, è ovvio che non solo non finiranno mai, ma continueranno ad aumentare e a morire, purtroppo a morire. È la cosa che fa più male in questo momento, è che nessuno si scandalizza per i morti, si scandalizzano e fanno la guerra invece ai soccorritori, a persone come appunto i volontari di MSF che rinunciano alle ferie, rinunciano alla loro vita privata per fare qualcosa di grande, per la quale dovremmo tutti essere grati. Sandro da Bergamo, sempre al numero verde 800240024. Che dici, Sandro? Sì, praticamente, come dicevo, la maggioranza italiana non sanno che l'Italia ha firmato questo trattato di Dublino nel 2003 e che governo c'era Berlusconi e Salvini. Adesso sono i primi che si lamentano, ma questo è il meno. Il problema è che l'Europa non vuole cambiare questo trattato, cioè, ve lo dovete tenere, e così tutti gli immigrati arrivano qua. Noi siamo diventati, cioè, prende per esempio le navi straniere che vanno a prendere i migranti, se le portano tutte in Italia, perché non le portano al loro paese, almeno quelle? No, neanche quelle. Noi siamo il porto di tutto il mondo, vengono anche dal Bangladesh, arrivano dai paesi, insomma. Sandro, con questo trattato, sì, ho capito. Ci hanno legato le mani e i piedi, e dopo confondono quelli che hanno bisogno, appunto quelli che vengono nelle guerre, d'accordo. Quegli altri però, se non c'è, perché dobbiamo tenere fino a per questo trattato? Non lo vogliono cambiare, noi siamo fregati. Sandro, sei stato chiaro, cioè, al centro della tua polemica c'è il famigerato trattato di Dublino con Riccardo Bonaccina. Riccardo, lo ricordiamo brevemente, è stato effettivamente firmato nel 2003 dal governo Berlusconi, che tu ricordi? Sì. E no, quello che stabilisce che il paese da cui sbarcano i migranti è quello che poi li deve riconoscere e se ne deve far carico, no? E l'Europa non lo vuole più cambiare, perché l'Europa comodo, ha, diciamo, delle responsabilità pazzesche. Io ricordo solo il famoso riallocazione dei migranti, cosa che risale oramai a metà 2014, quindi sono passati 3 anni, su 35.000 riallocazioni previste sono state fatte poco più di 7.000. L'Europa ha responsabilità pazzesca sul fatto che non ha previsto canali di ingressi illegali, e quindi, diciamo, rimangono solo quelli illegali. Quindi mi sembra che proprio Medici Senza Frontiere abbia detto a un certo punto: noi siamo gli occhi, diciamo, che guardano al disastro delle politiche europee e attaccano noi perché non si vuole vedere il fallimento della politica europea, se non sbaglio. E questo che intendete, De Filippi, di Medici Senza Frontiere? Certamente. Assolutamente. La genesi di questa lotta contro le ONG nasce proprio dalle politiche europee, che hanno chiuso qualsiasi via legale per cercare protezione in Europa, hanno costretto migliaia di disperati ad affidarsi ai trafficanti e poi non si fa nulla. Basti ricordare che abbiamo chiesto 3 anni fa che rivedessero i trattati di Dublino, su questo non è stato fatto nulla. Non è stato fatto nulla nemmeno sul sistema di ricerca e soccorso in mare, che sarebbe dal mio punto di vista importantissimo affidare all'Europa. Si è lasciato che la Guardia Costiera italiana facesse tutto in totale autonomia e soprattutto non si è fatto nulla sulla creazione di vie legali sicure per le persone che, una volta riconosciute meritevoli di poter arrivare in Europa, potessero farlo in maniera sicura. L'anno scorso, per ribattere il fatto che non facciamo i taxi del mare, sono morte 5.000 persone a mare, 5.000 esseri umani, che è l'esito annuale di una guerra a media intensità, no? E quindi è una cosa assolutamente scandalosa e credo che l'Europa abbia delle responsabilità incredibili. Troviamo sconcertante oggi che Avramopoulos ci dica tutte le ONG devono firmare. Sì, esatto, come se le ONG fossero determinanti, no, a fermare questi flussi. Anche se riusciranno a fermare le ONG, perché mi sembra che ci sia questa volontà, io sono certo che la disperazione continuerà e la situazione gravissima continuerà. E anche se le persone verranno respinte in Libia, saranno respinte in centri di detenzione a rischiare la propria vita, a subire delle violazioni quotidiane, E di questo noi avremo una patente responsabilità. Amedeo, un altro ascoltatore da Monza Brianza, all'800240024, vi ricordo il numero verde. Amedeo, buongiorno a tutti, grazie per l'opportunità. Io volevo dire che mi mancava anche quello di ascoltare la storia di persone, di profughi che arriverebbero in Italia, che avrebbero sufficienti capacità economiche per pagarsi l'albergo e che erano costretti a vivere all'interno di centri di accoglienza. Questo proprio, come dire, mi mancava. Ma giusto, i primi siriani che sono arrivati, come spiegava la sindaca di Lampedusa, sì, no? Va bene, io ritengo che tutto questo sia veramente riportare irresponsabilmente una realtà che è totalmente diversa. E poi volevo aggiungere ancora una cosa. Si parla di diritti umani, c'è molti amici, molti ascoltatori che sono intervenuti sottolineano questo aspetto, no? Garantire i diritti umani, perché oltretutto sono quanto ci viene prescritto dalle nostre leggi, dai nostri ordinamenti, dalla nostra stessa Costituzione. In realtà molti trascurano il fatto che il primo diritto che bisogna garantire agli esseri umani è il diritto a non emigrare, la possibilità di restare nella terra dove si è nati, nella terra dei propri padri, vicino alla gente che si ama, ai luoghi che si amano, vicino alla propria storia. Bisogna garantire tutto questo è il vero diritto, non... Amedeo, l'aiutarli a casa loro, però evidentemente sono anni che questa frase trita e ritrita, ma non c'è la volontà della comunità internazionale, evidentemente, sennò qualcosa si sarebbe già fatto. Amedeo, ti ringrazio, ci dobbiamo lasciare, c'è un ascoltatore che scrive al 349-238-6666, questo numero per SMS e WhatsApp, che dice: io ho abitato nell'Africa subsahariana, in Mali, 10 anni, mi ci reco regolarmente, credo che molti ospiti parlino di cose parziali, il problema è molto più complesso, molti dei richiedenti di status di profugo non sono dei luoghi che dichiarano, la parola Boko Haram o ISIS sono parole messe in bocca a ragazzi spesso messi in condizione di emigrare dalle famiglie stesse per avidità, il flusso è favorito dai paesi di provenienza che lucrano sulle rimesse degli espatriati, insomma l'argomento continua a essere estremamente complesso. Chiuderei con Riccardo Bonacina, se vuoi fare proprio una chiosa. Sì, la chiosa è che è vero che bisognerebbe aiutarli a casa loro. Per me è una frase che non mi scandalizza, però... Come dice la Lega da tempo, ma anche come ha detto Renzi, no? Nelle scorse settimane, cioè, creando però polemiche. Si è parlato tantissime volte di piano Marshall per l'Africa, di aiuti, e che bisogna aumentare gli aiuti verso quei paesi, che bisogna fare piani di sviluppo, ma Per il momento mi sembra che tutto sia abbastanza fermo. Gli stanziamenti non ci sono, i progetti non ci sono. Allora, intanto ringrazio Riccardo Bonacina, direttore della rivista Vita, il senatore Candiani, vice capogruppo al Senato, Giusi Nicolini, già sindaca di Lampedusa, e Loris De Filippi, presidente dell'ONG Medici Senza Frontiere. Grazie del vostro intervento. Grazie e buona continuazione. Buona giornata. Buona giornata. Grazie. Adesso invece vorrei riprendere la notizia che avevo dato dell'ultima ora, come si dice, veramente odiosa se fondata, di questa intera squadra di pompieri volontari che appiccavano incendi nel Ragusano, vicino a Ragusa, in Sicilia, per percepire il compenso. Ci sono 15 indagati. A questo proposito siamo in collegamento con Antonino Ciavola, che è capo squadra mobile di Ragusa. Buonasera, dottor Ciavola. Buongiorno a tutti. E grazie della disponibilità. Quindi questa storia è veramente deprecabile, perché no, quanta parte d'Italia è andata bruciata quest'estate? Se ci sono addirittura dei pompieri volontari che appiccano gli incendi, sappiamo più dove sbattere la testa. Sì, l'indagine, intanto mi preme sottolineare, l'indagine della Polizia di Stato è partita proprio da una segnalazione del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, in quanto avevano riscontrato delle anomalie rispetto, diciamo, agli altri onesti volontari che prestavano servizio in questo distaccamento di Santa Croce Camerina. Da lì abbiamo riscontrato che il modus operandi dei 15 indagati fosse, diciamo, già ben collaudato e messo comunque in atto addirittura dal 2013, per quanto abbiamo appurato fino al 2016. Sono fatti abbastanza datati, nel senso che la ricostruzione, l'indagine ha permesso di ricostruire, grazie alle schede di intervento fornite dai Vigili del Fuoco, il modus, diciamo, operandi, che era di due tipi. Gli indagati avevano, diciamo, simulavano delle segnalazioni di presunti incendi o comunque richieste di intervento, dove per mission i Vigili del Fuoco intervenivano immediatamente, inviando in quel caso ovviamente i volontari che erano i più vicini, o la cosa ancora più grave, abbiamo constatato la presenza, diciamo, di alcuni di questi volontari con la connivenza ovviamente di tutti gli altri, che andavano proprio ad appiccare degli incendi per poi rientrare in caserma ed attendere la chiamata da parte dei ovviamente cittadini che, accortisi dell'incendio, si segnalavano il tutto al 115. Addirittura quindi lasciavano del tutto, diciamo, in balia delle condizioni climatiche un incendio che per sua stessa natura è incontrollabile, perché ovviamente viene alimentato dalle condizioni atmosferiche. In estate, con il vento che soffia qui nel Ragusano, capite bene che il tutto poteva prendere, e come a volte è accaduto, diciamo, anche delle dimensioni enormi. Più loro stavano fuori per, diciamo, regolamento, e più percepivano indennità, perché percepivano più o meno 10 euro ora, diciamo, per intervento. E quindi adesso, vabbè, l'indagine va avanti, speriamo che sia una situazione molto circoscritta, no? Perché quando succede che si appiccano incendi continuamente ovunque, un po' in tutto il paese, qualche dubbio anche sul fatto che siano dolosi, per lo più purtroppo pare che sia così, no? L'autocombustione ormai non convince più nessuno, che però vi siano dei pompieri volontari addirittura, dottor Ciavola, no? Esiste sicuramente, avendo collaborato con i Vigili del Fuoco per mesi, esistono una serie di fenomeni chiaramente che possono essere, diciamo, intervenire come fattori, come concause, ma è chiaro che parecchi, appunto, degli incendi, ma io parlo ovviamente riferimento all'indagine, solo esclusivamente all'indagine, erano comunque stati appiccati volontariamente. Abbiamo pedinato e intercettato queste persone per diverso tempo, constatando proprio i vari movimenti degli indagati, dove andavano con le loro auto, diciamo, private ad appiccare gli incendi, dove poi dal GPS riusciamo a riscontrare che l'autobotte giungeva proprio in quel posto, quindi non si trattava in quel caso di una coincidenza, ma sono stati pedinati sia elettronicamente sia degli uomini della squadra mobile, che costantemente hanno seguito gli indagati. Complimenti a voi allora, dottor Ciavola. Grazie, capo squadra mobile di Ragusa. Buona giornata e buon lavoro. Maurizio D'Arieti, abbiamo proprio 25 secondi, riesci a dire? Ci volevo dire solamente questo: io ho lavorato in Libia nei campi dove tengono queste, e faccio il medico per emergency. Sul concetto di salvare le vite, si salva la vita in mare, ma molto spesso io vedo tantissime donne che sono coinvolte nella tratta, persone che vengono sfruttate al lavoro. Il concetto di salvare la vita deve andare anche oltre il discorso del salvataggio in mare, perché se poi condanniamo questa gente a prostituirsi per le donne o altre cose per gli altri, insomma, dici che salvataggio è. Maurizio D'Arieti, ti ringrazio. C'è il GR e poi ci sentiamo subito dopo, chiedendoci: ma restare in agosto qui in città è bello o brutto? 800 24 00 20. Il segnale orario vi è offerto da... A tavola! Che pizza! Roncadin! Che pizza! Roncadin! Nel banco freezer! Ma cos'è quest'estate? Giulia, San Mykonos, Tommaso, Riccione, Francesco, Miami, Andrea e Giulio, uno a Bangkok e l'altro a Bali. La Madonna. No, forse Bari, non mi ricordo. Meglio. Vabbè, comunque siamo rimasti solo noi due, là, è inutile, è una desolazione Roma. Vabbè, ma Roma d'estate è bella, guarda che meraviglia, non c'è nessuno, non c'è un'anima, non c'è una macchina, tutto libero. Beh, che me frega, tanto io la macchina manco ce l'ho. Vabbè, prendi l'autobus. Sì, andà dove, con sto caldo poi. In metro c'è l'aria condizionata. La metro l'hanno chiusa. Chiusa? Sì. Perché? Boh, così. Vabbè, non sai che c'è, stasera ci prendiamo due birrette, ci mettiamo al Gianicolo. Non si può bere per strada. Ci mettiamo coi piedi a mollo nella fontana. La CEA chiude l'acqua dalle 5 fino a domani mattina. Vabbè, senti, non ho capito perché devi essere così negativo. Negativo? Sì, negativo. Cioè, Roma è bella l'estate. Roma è il posto più bello in cui stare l'estate. Guarda che bello. Guarda questi palazzi, sembra la Roma nascosta, la Roma rubata. Guarda, con questi panni stesi, queste finestre chiuse. Stupendo. Poi, se fai attenzione, senti bene, si sentono le pecore da Formello. Ci andiamo a buttare dal ponte? Sì, quale? Ponte Milvio, pensavo. Carino, ma non è un po' bassetto Ponte Milvio? Vero. C'è il rischio che... Sì. Ponte Sisto? Ponte Sisto già meglio, sì. Sisto. Ah, se muore, sì. Ma certo. Insomma, cara ascoltatrice, cari ascoltatori, sempre Roberta Giordano con voi, tutte le mattine dalle 8 fino alle 10. Abbiamo parlato prima di un argomento molto serio, molto preoccupante, che ha anche spaccato il governo in questi giorni, i flussi migratori e anche il codice di comportamento delle organizzazioni non governative, chi l'ha sottoscritto, chi no, come Medici Senza Frontiere. Abbiamo avuto ospite il presidente e poi diversi altri ospiti, però adesso cerchiamo di alleggerire, avete sentito questo alleggerimento del duo Le Coliche, che praticamente hanno rappresentato in questo loro dialogo il positivo e il negativo di rimanere in città ad agosto. Voi che cosa ne pensate? Ci sono più lati negativi o più lati positivi nel rimanere, cioè non essere in vacanza come tanti altri? Loro facevano, avete sentito, l'elenco dei nomi, tutti gli amici, chi era di qua, chi era di là, nei posti di vacanza, e loro in città, con uno dei due che cercava di far emergere soprattutto gli aspetti, diciamo, più positivi, e l'altro che addirittura forse è meglio andarsi a buttare dal ponte a questo punto. Sono il duo Le Coliche, all'anagrafe Fabrizio e Claudio Colica. Abbiamo in collegamento Fabrizio. Caro Fabrizio, ciao. Eccomi, buongiorno a tutti. Buongiorno Fabrizio. Mentre mi sa che tuo fratello, perché siete due fratelli appunto, Claudio, se n'è andato in Thailandia. Doveva esserci in collegamento anche lui, però ha pensato bene che lo deprimeva stare in città a Roma, quindi è partito e non siamo riusciti a raggiungerlo, ha avuto dei problemi da con l'aereo. Da buoni fratelli siamo proprio gli opposti, lui in Thailandia e io scendo adesso dall'autobus. Senti, quindi... siedi all'autobus romano, funziona oggi? Tutto bene? Oggi sì, ma perché non c'è nessuno, quindi circa, c'è l'autobus privato, quale lusso migliore per Roma? Adesso io a convincermi. Infatti Fabrizio, tu hai l'arduo compito adesso con le ascoltatrici e gli ascoltatori, ricordo per voi c'è sempre il numero verde da chiamare, 800 24 00 24, vediamo tra voi gli schieramenti, ascoltatrici e ascoltatori, tra positivisti e negativisti, diciamo, sullo stare in città d'agosto. Allora, Fabrizio, tu hai l'arduo compito, dicevo, di elencare tutti i fatti positivi che... Già hai cercato di elencare tuo fratello, ma insomma, persuadendolo un poco, tant'è che sei andato in Thailandia, mi sembra, no? Appunto, come dicevamo. Prego Fabrizio. Per me è un arduo compito, proprio trovandomi a Roma. Vabbè, innanzitutto uno è quello da poco citato, ossia hai dei mezzi di trasporto completamente a tua disposizione, delle larghe limousine con tanti posti vuoti, tutti apposta per te, certo. Con il riscaldamento, vediamola così, ecco, con un caldo disumano, però ecco, hai un mezzo tutto per te, vuoi mettere, cosa che d'inverno non succede mai. E quindi diciamo, vabbè, magro consolazione, però può essere già nell'elenco da prendere appunti, su questo primo aspetto positivo. Poi un altro, ti vivi la solitudine di Roma, ti vedi, come diceva mio fratello nel video, questi palazzi di una Roma, questo è vero, a parte gli scherzi, Roma d'estate acquista quel fascino irrecuperabile d'inverno, cioè ormai specialmente il centro storico sta diventando un punto turistico, i ristoranti non sono più come quelli di una volta. Invece durante l'estate hai la possibilità di rivedere quelle atmosfere quasi del cinema del neorealismo, quelle cose che non si vedono veramente più. No, a me veramente piace molto Roma d'estate, spesso lo dico per autoconvincimento, per non cadere in depressione. Vedi, ma in realtà sotto Fabrizio, ma tu stai anche lavorando o ti godi Roma così quasi da turista pur abitandoci? No, fondamentalmente è per lavoro e per dei giri, perché infatti un altro lato positivo è che non trovi le file. Cioè, io ultimamente in questi giorni ho fatto delle file per pagare l'acqua, per riallacciare delle cose, per fare delle cose burocratiche all'ASL, che d'inverno mi sognerei proprio di fare in così poco tempo. Comunque, d'estate... siete stati coerenti, perché tu sei effettivamente rimasto in città e tuo fratello è partito. Ma farai delle vacanze anche tu o l'hai già fatte? Sì, tra poco partirò. Vacanze italiane quest'anno. Vacanze italiane. E ci sono dei buoni dati sulle vacanze italiane, sui turisti nel nostro paese, più italiani, sì, che possono permettersi la vacanza. Poi sentiremo Federalberghi, infatti, tra poco. Fabrizio... Troverò il casino in giro in Italia, troverò i turisti ovunque. Beh sì, dipende un po' da dove vai. Ci sono delle zone magari meno prese d'assalto, altre non so, mi pare riservata la tua destinazione, no? No. Andrò più che altro in Toscana. Mi giro in Toscana, Isola d'Elba. L'Isola d'Elba la troverai un po' più congestionata, la Toscana però è ampia, tanti spazi verdi, lì è più difficile trovare file, code, tranne in certi momenti, in certi luoghi, però diciamo che... E Puglia come sta? Probabilmente pure in Puglia. Puglia, anche la Puglia è grande, diversificata. So che molti VIP anche internazionali sono andati in Puglia quest'anno, anche Madonna era da quelle parti, quindi se ti può interessare raggiungerla per qualche motivo... Perfetto. Va bene, Fabrizio. Senti, il vostro prossimo appuntamento invece con tuo fratello Claudio. Prossimo appuntamento. Vabbè, ovviamente noi non riusciamo a starci zitti per qualsiasi cosa succeda. Noi pubblichiamo sempre la nostra cavolatina. Abbiamo degli affezionati che ci seguono in qualsiasi momento. Cioè, noi abbiamo pensato, dai, d'estate fermiamoci un attimo, anche perché la gente sarà al mare, metterà via lo smartphone. Invece vediamo che c'è molto riscontro. La pagina è cresciuta tantissimo nelle ultime settimane, la pagina Le Coliche, sì. Veramente una cosa inaspettata. Certo, parliamo di tematiche molto attuali, sia l'estate, Roma d'estate, abbiamo fatto riferimento a molte cose che stanno succedendo a Roma o che non stanno succedendo a Roma. Che cos'è che non sta succedendo a Roma, Fabrizio? Per esempio c'è stata questa cosa che ho visto che non ha sorpreso nessuno, ossia che hanno fermato per un periodo la metropolitana. È proprio così, cioè i romani hanno preso come una cosa, ma perché è successo? No, così, dai, non farti domande. E quindi abbiamo avuto questo blocco della metropolitana, penso per dei lavori, non lo so, però nessuno si è chiesto il perché fondamentalmente. Ormai c'è rassegnazione, dici? Sì, ormai c'è un'attesa, sì, forse rassegnazione, non lo so, però è bello un po' lo spirito dei romani, quello di adattarsi. Essere pazienti, di adattarsi, flessibili, diciamo, c'è una certa flessibilità ormai. Sì. Molto bene, Fabrizio, allora buona continuazione, buon divertimento e buone vacanze quando le farai. Grazie mille. Ciao, salutaci Claudio. Buona giornata, va bene, quando lo sento. Ciao Fabrizio. Ciao. Ora c'è ancora spazio per voi ascoltatrici e ascoltatori, vedo diversi ascoltatori, mi pare di aver sentito che saranno ancora sulla questione migranti, però adesso man mano possiamo anche cambiare argomento. Per esempio Alessandro, c'è Vito da Brescia? Vito? Sì, buongiorno. Pronto? Vito, buongiorno, prego. Buongiorno, senti, io volevo intervenire su quel problema che lei ha prima del telegiornale ha sollevato sul problema di quegli, diciamo, volontari vigili del fuoco che hanno incendiato lì in Sicilia. Ah, su questo argomento vuoi intervenire? Ecco, sì. Su questo argomento. Ma non penso che sono solo in Sicilia. Questi hanno, diciamo, devastato tutta la penisola, chi sia Roma. Io mi trovavo ultimamente a luglio in Calabria e penso che tutta la Calabria è stata devastata dagli incendi. Io penso che qui il governo, indipendentemente, diciamo, dalle leggi che ci sono, probabilmente che non riescono a farle rispettare. Cioè, una volta acchiappati questa gente qui, tipo adesso in Sicilia, dicono che il capo di questi volontari è stato preso, gli hanno dato gli arresti domiciliari. Ma ragazzi, noi gli diamo il premio a questa gente. Gli diamo il premio. Allora, poi Vito, troviamo per adesso... qualche avvocato tranquillamente che dirà ma no, perché l'ha fatto, perché aveva bisogno la famiglia, bene, gli diamo anche i premi, gli diamo e non gli fanno niente. Vito, cioè... senti, per il momento sono stati fermati, poi ci auguriamo che se... Ma non sono solo qua, signora, non sono solo qua, no, siamo in Italia. Ecco, allora, ma non la difficoltà spesso il paese. Allora, è acchiapparli, Vito. Le telecamere come siamo attrezzati nelle città, automaticamente allora sorvegliamo anche la parte diciamo del Vito verde. Mi è capitato proprio nei giorni scorsi di ritrovarmi in Pinete, che amavo moltissimo, nel centro Italia, devastate dagli incendi. Sai, mettere telecamere dappertutto è quello che piacerebbe a me, a molti, no? Però evidentemente è molto complesso ed è molto difficile purtroppo beccare i colpevoli. Anche viaggiando lungo l'autostrada, tu non sai quanti tratti, che non mi era mai successo, dal nord al sud e ritornando ai lati delle autostrade, quante parti incendiate. Basta buttare, no, per divertirsi sadicamente, criminalmente, una sigaretta o qualcosa, e veramente, quindi diventa complicato acchiappare i colpevoli. In questo caso speriamo che, se diciamo il reato è comprovato, siano puniti pesantemente. Vito, ti ringrazio e passerei invece ad Antonio da Venezia. Buongiorno. Buongiorno Antonio. Allora, un infermiere, lavoro in ospedale per turni, c'è il lavoro in estate. Antonio, scusami, si sente un po' male. Lo so, va bene. Ecco. Adesso mi sente meglio? Non sei in gondola, no, lì a Venezia? No, sono a Mestre, abito a Mestre. Ah, Mestre, sì. Allora, ho detto, per scelta, per turno, lavoro di in estate, perché sono un infermiere, lavoro sul reparto d'urgenza, e quindi cioè, come turnistica raramente stiamo a casa in estate. Lavoro pesante, tra l'altro, il tuo. Non è un io volevo solo segnalare un fatto. Sì. Che quando, anche perché l'esperienza che lavoravo in pronto soccorso, da giugno in agosto vedevi le processioni di figli che cercavano di depositare i genitori anziani per poi partire per le vacanze. E questi dopo, quando sono in corsia, sono completamente abbandonati. E tante volte adesso siamo noi che gli facciamo un po' di conforto. Antonio, hai aggiunto un aspetto ulteriore, no? Questa, diciamo, restare in città oppure no, che può essere sia un motivo lavorativo come il tuo, e però purtroppo anche questa cosa che dicevi, no? Vergognosa, di chi si vuole liberare delle persone anziane, non autonome, per farsi le vacanze e mollarle dove certamente non è il luogo più adatto, né per gli operatori stessi che si ritrovano in un'emergenza, oltre ai malati, anche a dover gestire persone che hanno una certa età, che potrebbero stare tranquillamente a casa se ci fosse qualcuno con loro, no? Quindi è una cosa vergognosa, diciamo, molto triste per quanto riguarda i figli di queste persone. Antonio. In effetti sì, perché dopo è l'ora della dimissione, o non li trovi o accampano mille scuse perché non li vogliono a casa in questo periodo, o anche nei periodi metti a Natale, nei periodi di Pasqua, insomma tutti i periodi di festa. Dopo i reparti di medicina d'urgenza sono pieni di questo tipologia dei ricoveri. Questo è il problema. Sì, questa è una triste realtà che ci hai portato tu come testimonianza, Antonio. Antonio, io ti ringrazio anche di questo e ti auguro buon lavoro. Allora, riuscirai poi a fare dei giorni? Riuscirai a fare dei giorni in altro... A settembre. Dai, a settembre. Si paga meno, c'è meno folla. Via, consoliamoci così. Grazie. Ciao Antonio, grazie. E adesso invece andrei sui buoni dati del turismo in Italia. Le navi salpano, le spiagge bruciano, selfie di ragazze dentro i bagni che si amano. La notte è giovane, giovani vecchi, parlami d'amore che domani sarò a pezzi. Intanto cerco il mare, un'aquila reale. Tra poche ore, sotto il sole, di riccione, di riccione. Quasi quasi mi invento e non ci penso più, e non ci penso più. Faccio schiaffi, con le onde, con il vento, le prendo come Riccione o altre località italiane, insomma, sembra che vadano decisamente meglio quest'anno. Da un'indagine Last Minutes di Federalberghi emerge questo, c'è un'ottima performance per il turismo estivo, aumentano del 3,2% rispetto allo scorso anno gli italiani in vacanza tra giugno e settembre. Prima abbiamo sentito Antonio che andrà a settembre, quindi sono in vacanza 34,4 milioni di italiani complessivamente tra giugno e settembre. Agosto è il mese preferito, il mare naturalmente è la meta più gettonata e la durata media di queste vacanze turisti italiani è di 10 giorni, e la cosa positiva è che diminuisce quindi il numero delle persone che non faranno neanche un giorno di vacanza tra giugno e settembre. Si tratta del 43,1% della popolazione, pari a 24,2 milioni di individui contro i 27 milioni e mezzo dell'anno scorso che non facevano neanche un giorno di vacanza. E a parlarcene c'è Alessandro Nucara, direttore generale di Federalberghi. Buongiorno Nucara. Quindi buongiorno. Siete contenti, soddisfatti? Sono dati positivi che fanno stare tranquille le imprese, guardare con ottimismo al futuro, stare tranquilli immaginiamo anche gli italiani che vanno in vacanza, che si godono un meritato periodo di riposo, stare tranquilli 1 milione di persone che lavorano nel turismo. Prima sentivamo l'amico che lavora in ospedale, e ovviamente facendo le debite proporzioni, perché in quel caso si tratta di dare un servizio di prima necessità, ma anche in questo caso abbiamo 1 milione di persone che d'estate, mentre gli altri si divertono, si preoccupano di farci star bene, di coccolarci, di farci divertire. Ricordo il numero verde 800 24 00 24 per le ascoltatrici e gli ascoltatori, il numero verde, il numero gratuito, per dire un po' quali sono gli aspetti positivi, negativi del fatto di stare in città o meglio di stare in vacanza, insomma da dovunque siate potete chiamare il numero verde. Leggevo che le persone che restano in città lo fanno principalmente per motivi economici, secondo questa vostra indagine il 55% dei casi, purtroppo ancora la crisi morde, poi per impedimenti familiari il 18%, per questioni purtroppo di salute il 16%, e ci sono anche i timori legati alla sicurezza il 10%, con purtroppo queste notizie di attentati, di atti terroristici, molti si preferiscono rifugiarsi nelle proprie abitudini quotidiane, poi per questioni di lavoro il 9%, mentre il 6% dichiara invece che farà vacanza in altro periodo dell'anno. E quindi Nucara, cioè, tutto sommato si poteva andare meglio, però mi sembra che già questi dati siano molto positivi, altri in altri periodi, insomma, sì, ricordiamo che è un dato medio, quindi ci sono diciamo, destinazioni che in questo momento realizza una performance migliore delle destinazioni in cui c'è ancora posto, quindi si sta bene, ma non c'è il pieno in assoluto. Chi ancora non ha deciso, la nostra indagine ha anche sentito una piccola percentuale di indecisi, fa in tempo a prenotare. Molto interessante il dato di settembre in crescita, diceva lei prima, meno folla, meno code, prezzi più bassi, è uno dei dati interessanti, degli aspetti convenienti del viaggiare in bassa stagione. Noi italiani lo facciamo meno degli stranieri, ma la nostra indagine quest'anno ha rilevato una tendenza importante di crescita sul mese di settembre. Bisogna ovviamente accompagnare questi processi di stagionalizzazione. Gli alberghi da sempre tengono i prezzi più bassi in bassa stagione, ma non basta che solo l'albergo sia attivo, bisogna muoversi tutto intorno. In questi giorni la decisione, la soluzione adottata dagli Uffizi a Firenze per una politica di prezzi differente da stagione a stagione, oppure quest'inverno, ricordo la regione Piemonte, che ha organizzato la settimana dello sport invernale per consentire agli alunni delle scuole e alle famiglie di trascorrere un periodo sulla neve, e tante altre soluzioni che ci potrebbero aiutare a godere di vacanze più tranquille, meno costose, in maniera più ordinata. In un numero limitato, devo dire, di casi, all'inizio dell'estate si è parlato di condizioni di affollamento, le cronache ne hanno riferito, che possono oggettivamente rendere meno gradevole il soggiorno durante il periodo di vacanza. E allora noi in Italia non abbiamo certamente un problema di troppi turisti, i turisti portano ricchezza al paese, portano lavoro, quindi noi ci dobbiamo organizzare per accoglierne sempre di più, ma li dobbiamo far star bene, dobbiamo evitare l'affollamento, e l'organizzazione di offerta in bassa stagione, in quella che chiamiamo ancora bassa stagione ma dovrebbe diventare stagione tutto l'anno, potrebbe essere un altro modo per dare più lavoro, più ricchezza e contemporaneamente vacanze più belle a tutti gli italiani e gli stranieri. Nucara, non so se ho percepito in modo pertinente tra le sue parole forse anche l'auspicio che i prezzi si possano abbassare non soltanto nella cosiddetta bassa stagione, ho capito bene? Ma tendenzialmente, lo vediamo anche nella nostra indagine, i prezzi sono calmierati, utilizzo un eufemismo, gli anni della crisi hanno inciso sul mercato e hanno fatto sì che i prezzi si abbassassero. Anche quest'anno noi abbiamo una riduzione della spesa media che è di circa il 3,5%, quindi aumentano le persone che vanno in vacanza, diminuisce la spesa che ciascuno di questi sostiene e ciò dipende da un insieme di fattori. È chiaro, chi acquista cerca sempre di ottenere la migliore qualità al minor prezzo. Bisogna stare attenti, a volte il prezzo basso può nascondere delle magagne, io le chiamo così. Oggi siamo abituati a comprare in rete, io dico sempre controllate bene, non vi fidate mai di una sola fonte, chiamate direttamente l'albergo. La nostra indagine è un dato interessante, il 55% degli italiani hanno deciso di prenotare contattando direttamente la struttura. C'è una novità di questi giorni, l'ha introdotta il disegno di legge concorrenza, la possibilità che un tempo era negata agli alberghi di offrire sul proprio sito condizioni più favorevoli rispetto a quelli presenti sui portali, sui grandi supermercati della prenotazione online, non è ancora in gazzetta ufficiale, quindi la legge di per sé non ha ancora vigore, ma vediamo da questi dati che gli italiani già da tempo hanno cominciato a farlo e quindi contattare direttamente chi offre, negoziare soluzioni ad hoc, ottenere anche trattamenti personalizzati. Non sempre, non necessariamente una questione di prezzo, può riguardare semplicemente la possibilità di avere quella coccola in più o quel trattamento ad hoc di cui abbiamo bisogno che nel grande supermercato non troviamo. Quindi chiamare direttamente, magari accordarsi su certe condizioni magari particolari, insomma. Bene, vediamo come proseguirà la stagione, ma insomma i dati, come dicevamo, sono positivi. Intanto la ringrazio, Alessandro Nucara, ricordo direttore generale di Federalberghi. Buon lavoro, buona continuazione, buona estate allora. Buone vacanze italiane a tutti. Grazie. Allora 800 24 00 24, adesso ci prendiamo una piccola pausa estiva ma brevissima, poi ritorniamo per parlare con una psicologa di come si può, diciamo, effettivamente trovare le risorse dentro se stessi se si rimane in città in estate, in particolare in agosto, a superare quella frustrazione, quella tristezza, quella rabbia anche a volte, no? dei amici, parenti che magari sono in vacanza e noi ci troviamo invece a lavorare. E voi che cosa ne pensate dello stare in città ad agosto? 800 24 00 24, qual è la vostra esperienza? Anche se siete in vacanza, potete parlare e dire ah, sono felicemente qui perché a me deprime stare in città in questo mese, oppure altri come per esempio prima Antonio che abbiamo sentito che lavora e lo fa anche in modo particolarmente meritevole. 800 24 0024 oppure il numero per messaggi e WhatsApp che rimane sempre il 349 238 6666. Se pensate che una volta caduta Raqqa ci potremmo dimenticare dell'ISIS, e se pensate che le battaglie per i diritti di gay e lesbiche in Russia siano affar loro, questo programma non fa per voi. Sono Giampaolo Musumeci. Se invece pensate anche voi che il mondo è troppo piccolo per pensarlo ancora grande, vi aspetto qui, a Nessun Luogo è Lontano, da lunedì al venerdì alle 16 e tutte le domeniche alle 19.10, qui su Radio 24. Ma cos'è quest'estate? Cerco l'estate tutto l'anno e all'improvviso eccola qua. Ehi, è partita per le spiagge e sono solo qua su in città. Sento fischiare sopra i tetti un aeroplano che se ne va. L'aeroplano se ne va per chi rimane d'estate, soprattutto in agosto in città. Roberta Giordano sempre con voi, insieme tutte queste mattine dalle 8 alle 10. E adesso dicevamo con Nicoletta Gava, che è psicologa e direttrice del Milton Erickson Institute di Torino, vorremmo capire quali possono essere le risorse dentro di noi da tirare fuori quando rimaniamo in città e vedere anche, diciamo, i lati positivi. Buonasera, dottoressa Gava. Buonasera a tutti gli ascoltatori. Quindi come possiamo consolarci del fatto di essere in agosto in città invece che in qualche posto di ameno di villeggiatura? Molte persone, sentivamo poco prima, scelgono di rimanere in città, per altre invece purtroppo è una necessità, stati di salute della famiglia, necessità al lavoro, necessità economiche. Il nostro centro lavora per il benessere delle persone e delle organizzazioni e l'idea che molte organizzazioni hanno sviluppato recentemente è che se la persona è maggiormente in equilibrio riesce a lavorare con un livello di sforzo minore, no? Quindi per molte aziende oggi è possibile attivare dei corsi sulla gestione degli stati emotivi, sulla gestione dello stress. Quando questo non fosse fornito, diciamo, dalla propria organizzazione, ognuno di noi però si può dotare di piccoli strumenti pratici. Per esempio può verificare quali sono i livelli di stanchezza durante la giornata e definire, diciamo, un calendario delle attività sulla base di quelli che sono i propri ritmi interni. Quello che succede spesso quando si lavora è che si crea un accumulo di tante cose da fare, soprattutto in agosto si accumulano le cose che erano lì da tanto tempo, i lavori scomodi, i lavori che non si aveva voglia di fare, e allora a un certo punto sembra veramente che arrivi una montagna addosso. Quello che noi consigliamo di fare è proprio lavorare sulla gestione dei carichi, quindi organizzare la propria giornata tenendo conto degli impatti emotivi dei singoli compiti e lavorare per riuscire ad affrontare momento per momento, diciamo, ogni singolo compito con maggiore calma. Per esempio, lavorare gestendo l'attenzione. Ci sono dei momenti in cui noi ci rendiamo conto che l'attenzione ci porta a essere più produttivi, più carichi. Ci sono invece altri momenti in cui l'attenzione tende a spostarsi, ci diventa davvero difficile portare avanti il lavoro. Ecco, quello è il momento in cui veramente è importante concedersi una pausa. Poi diciamo sì, in realtà poi se uno è al lavoro e magari ha un carico ulteriore perché deve anche sostituire magari i colleghi e il loro lavoro, diventa un po' più complicato. Però lei dice bisogna fare un po' mente locale, cercare di gestire l'ansia, lo stress, cosa che probabilmente un po' vale per tutto l'anno, e cercare di non di vivere momento per momento. Esatto, diciamo che quando ci sono tanti tipi di accumuli sicuramente il corpo ne può risentire, quindi per qualcuno questo si manifesta con difficoltà del sonno, per qualcuno si manifesta con difficoltà per esempio nel tono dell'umore, si diventa più stanchi, più arrabbiati. Se poi ci si mette anche il caldo, no? di questo periodo, diciamo, insomma, la difficoltà aumenta. Sentiamo Patrizio da Roma, l'800240024. Patrizio, positivo o negativo? Sì. Buongiorno. Sei in città a Roma? Patrizio, sì. Io ho la fortuna di vivere a Roma, che se ne dica. E io sono positivo perché per quanto riguarda me, le città in genere in questo periodo offrono veramente diciamo degli spazi che non vengono vissuti durante l'anno. Ovviamente va collegato con il lavoro, ma la dottoressa diceva molto bene, è la gestione appunto delle proprie emozioni che si provano e della propria fatica. Troppo spesso si sentono persone che vanno in vacanza e tornano come riprendersi dallo stress. Ecco, io invece, hanno bisogno di un'altra vacanza. Esatto, no? Quindi mi sembra un po' una contraddizione in termini. E tu dici stai bene a Roma, farai vacanze però, Patrizio, tu le hai già fatte. Guarda. Ma le vacanze io le faccio durante, quando sto, è proprio questo che volevo dire. Io quando sto a Roma in questo periodo per me è una vacanza. Patrizio, ma più positivo di te, più ottimista di te, magari avere questo spirito. Patrizio, ti ringrazio moltissimo. Grazie, io ringrazio voi che affrontate questo argomento perché sì, tocca generalmente anche le persone anziane, pensiamo anche alle persone anziane che vivono, come dicevo prima, specialmente con questo clima, le condizioni di abbandono. Ecco, si potrebbe fare molto di più in questo periodo e soprattutto per loro, e un pensiero mio va rivolto a loro. Grazie, per quanto riguarda vivere la città, vivete la città, questo è il momento buono. Sereno, ecco, ottimista e positivo. Grazie Patrizio. Grazie ancora per la vostra impegno sulla trasmissione. E buona continuazione. Nicoletta Gava, proprio una chiusura, ci stiamo salutando. Sì, quello che consigliamo a ogni persona è proprio lavorare sulla gestione delle energie, quindi in questi periodi così sensibili lavorare per portare almeno in alcuni momenti della giornata, l'attenzione al qui e ora, portare l'attenzione sul corpo. E mi sembra lasciare... che Patrizio lo mettesse molto bene in pratica. Dottoressa Gava, la ringrazio e auguro buona estate anche a lei. Grazie. Arrivederla. Perderti fu facile, fu veloce, arreso al terrore che dopo poche ore mi chiamavi amore. L'estate è tornata e chi è? Allora, dicevamo che molti turisti quest'anno preferiranno l'Italia, anche turisti italiani, però ci sono sempre gli ardimentosi, curiosi, del resto gli esseri umani sono esploratori che andranno anche in altre parti del mondo. Allora, a questo proposito, coinvolgerei il dottor Andrea Rossanese, che è vicepresidente della Società Italiana Medicina dei Viaggi e delle Migrazioni. Dottor Rossanese, buongiorno. Buongiorno. Lei, a chi si sta preparando con zaino, valigie, eccetera, e vuole girare per i vari paesi esotici, cosa consiglierebbe per quanto riguarda la salute e la medicina, visto che è presidente appunto della Società Italiana Medicina dei Viaggi? Ma se dovessi poter spendere una parola in anticipo per coloro che organizzano vacanze in luoghi diversi da quelli nei quali sono abituati a vivere, direi: non pensate a questo aspetto solamente pochi giorni prima di partire. Pensare alla salute in viaggio è importantissimo, perché uno dei motti più diffusi è partire bene per tornare ancora meglio. È da sciocchi cercare di star poco bene finché si è in un paese lontano, perché la capacità di far fronte anche alle piccole emergenze della vita di ogni giorno può diventare più difficile. Ecco che allora le linee guida internazionali suggeriscono di dedicarsi a questo aspetto almeno un mese e mezzo prima della partenza. E adesso in pochi tratti cercherò anche di far capire perché. Sì. In primo luogo, perché qualche volta, non sempre, ma qualche volta, per alcune destinazioni potrebbero essere o necessari o vivamente raccomandati alcuni vaccini. E per eseguire alcuni di questi è necessario sottoporsi a più richiami prima della partenza, e quindi se si comincia il tutto troppo al di sotto della data prevista per la partenza, potrebbero non esserci i tempi giusti per completare lo schema vaccinale. Secondo, perché potrebbe esserci il tempo sufficiente per organizzare una buona farmacia da viaggio, un buon kit da viaggio. E in terzo luogo, questo purtroppo lo si dimentica troppo spesso, ma in realtà poi diventa una delle cose più importanti, ci sono i tempi necessari per stipulare anche una assicurazione di viaggio, che magari potrebbe non sembrare, però, certo, soprattutto ovviamente in casi particolarmente gravi. È ovvio che nessuno, io per primo, penserebbe di star poco bene durante una vacanza. Però può capitare, purtroppo. Sì, nel corso della mia attività ho conosciuto persone che hanno pensato bene di farsi venire un attacco di appendicite acuta, che ne so, in Thailandia, e hanno dovuto essere operati d'urgenza, e non dico che si siano ipotecati la casa, ma quasi, perché ovviamente quando c'è la gallina dalle uova d'oro sulla quale si può un attimino giocare, la si spenda bene bene, alla fine del conto la cosa può essere difficile da gestire. Quindi, dottor Rossanese, per sintetizzare, come ha detto lei, prima di partire per un lungo viaggio, per un viaggio esotico, per tempo guardare se ci sono da fare delle profilassi, delle vaccinazioni prima, se è il caso di fare delle assicurazioni, insomma non decidere così, non è proprio da last minute in certi paesi, doverci andare proprio all'ultimo momento, bisogna prepararsi in modo adeguato. Questo è un po' la sintesi. E oltretutto noi abbiamo una grande fortuna in Italia, e cioè che in tutte le ASL del territorio nazionale c'è un ufficio, un servizio dedicato proprio alla vaccinazione, alla profilassi e alla consulenza sanitaria per i viaggiatori internazionali. È sufficiente cercare all'interno dell'area dei servizi ospedalieri della propria azienda sanitaria locale quale sia il punto di riferimento e prendere le adeguate l'appuntamento. Misure, l'appuntamento. Certo. Dottor Andrea Rossanese, la ringrazio moltissimo, penso che siano consigli utilissimi per molti, cerchiamo di essere un po' più avveduti in queste cose, non bisogna essere superficiali, lo ricordo, vicepresidente della Società Italiana di Medicina dei Viaggi e delle Migrazioni. Buona salute e buona estate, dottor Rossanese. Grazie. Grazie anche a voi, saluti. Oh, e pensate che ascoltatore di grande livello, di grande profilo abbiamo qui, ma cos'è quest'estate? C'è Beppe Severgnini, Beppe? Buongiorno Roberta, buongiorno. Quindi stavi ascoltando, quindi sei interessato a capire cos'è quest'estate. Che estate è? Allora, Beppe Severgnini, ricordo, grande giornalista, giornalista del Corriere della Sera, commentatore, opinionista, sagace. Che estate è questa per te? Ti sei dimenticato un pezzo, che io da qualche mese sono il direttore di Sette del nostro settimanale del Corriere. E quello ti spiego, c'è perché cose questo c'entra col tuo tema di oggi. Cioè io sto andando in macchina, anzi mi scuso con per il viva voce, al lavoro, perché questa è la mia prima estate di lavoro. Ma siccome io sono il capo e i miei devono lavorare, quest'anno non ci fermiamo, non riduciamo la fogliazione, io sono convinto che la gente d'estate lega i giornali, lega i settimanali e ascolti la radio, quindi è anche giusto che noi non ci fermiamo, è come se i maestri di sci andassero in vacanza a Natale, non è molto ovvio. Beh, tu sai che molti capi proprio ad agosto, no? Spariscono dalla circolazione. Senti Beppe, ma quindi qualcosa che riguarda l'estate in particolare, non so, usi, costumi, tic e mode, no, di quest'estate sul volevo sette? Proprio stare nel tuo tema, sì. Roberta, prima di tutto intervistare l'intervistatrice con una domanda, ma tu sei volontaria per agosto oppure sei stata costretta a mano militare? Devo essere sincera, la seconda che hai detto, però insomma è il mio mestiere, di solito lo faccio bene. Gli altri. Beh, però dai, sono qua, poi allora, gli ascoltatori. Ti dico una cosa sull'estate in città. Allora, al di là del mio caso, e lo faccio volentieri, vedi, ma io sto bene, mia moglie ha detto bene, quest'anno è un anno così, ho avuto molta fortuna perché essendo uno scrittore io il mio libro ho i miei pezzi per il Corriere, li scrivevo dalla montagna o dal mare, io a luglio ero spesso via e lavoravo da lontano, adesso non lo posso fare, quindi la chiave di quello che volevo dire era un po' questo, io credo che in condizioni buone, quindi psicologiche buone, non è difficile, anzi è molto bello l'estate in città. L'estate in città è difficile quando non ci sono queste condizioni. Già. Per persone sole, perché vedi, l'estate è proprio il momento della condivisione, della espansività vitale, se mi concedi. Quindi essere soli d'estate, costretti a essere soli d'estate, è più difficile. Dell'autunno, della primavera, perché l'estate è il momento dello stare insieme, di fare cose dell'evasione, diverse, no? del potersi distrarre. Se uno sceglie, al di là dei mestieri, se uno sceglie di farti l'estate in città e quindi non è costretto, ma lo sceglie, io penso che se la possa godere, perché diceva prima il tuo ascoltatore, ha ragione, l'estate in città ha un grandissimo fascino. Posso chiudere con due consigli di lettura? Certo. Allora, il primo è Ferie ad agosto di Cesare Pavese. È un libro bellissimo sul fascino dell'estate. E l'altro è un libro invece molto meno noto, di una trentina d'anni fa, si chiama L'ultima estate in città. E l'autore si chiama Caligari, andate a cercarvelo, sono due libri molto diversi fra di loro. E poi se avete tempo leggete anche Sette del Corriere della Sera. Naturalmente, di quei direttore Beppe Severgnini mi paiono degli ottimi consigli di lettura, sia per chi resta in città, sia che per chi ha la fortuna di essere in vacanza. Beppe Severgnini, buona permanenza allora in città e buon lavoro. E buona estate, grazie di aver chiamato. Gusto a tutti, ciao. Ciao Beppe. C'è la viabilità? Sì, ci sentiamo tra poco. Ma cos'è quest'estate? E adesso un tuffo nello spazio, c'è anche chi in vacanza va nello spazio come Roberto Nespoli con i suoi magnifici 60 anni che continua ad avere questa curiosità esplorativa dello spazio, ma ci sono anche degli aspetti connessi a questa missione molto ulteriormente importanti a loro volta, che sono quelli che riguardano la prevenzione, la salute, in particolare l'osteoporosi. C'è anche il sangue, pensate, sulla navicella partita dalla Stazione Spaziale Internazionale del professor Mauro Maccarone, che serve proprio per studiare gli effetti della mancanza di gravità sull'osteoporosi. Il professor Mauro Maccarone è in collegamento con noi da niente poco di meno che da Cape Canaveral, dagli Stati Uniti. Sono le 3 di notte da lei più o meno? Sì, buongiorno a lei e ai radioascoltatori. Sono le 3 passate da poco. Io mi lamentavo di essermi alzata alle 5, ma lei diciamo che fa ancora meglio. Professore, quindi c'è il suo sangue che viaggia sulla navicella spaziale? Sì, sarà uno strumento, un materiale di partenza per verificare e dimostrare un'ipotesi che potrebbe aiutarci nel trattamento, speriamo addirittura nella cura dell'osteoporosi, sia nello spazio che sulla Terra. Quindi lei ha dato generosamente dei suoi campioni di sangue per poter portare avanti anche questo studio e capire come si può combattere l'osteoporosi, perché sappiamo che per quanto riguarda gli astronauti c'è questo tipo di ripercussione: quando vanno nello spazio c'è una diminuzione della densità ossea, no? E quindi il rischio di osteoporosi. Esatto. In effetti tra poche ore ci sarà un prelievo per il quale io mi offrirò come volontario insieme con altri, e l'idea di fondo qual è? Quella di verificare se alcune cellule presenti nel nostro sangue, nel sangue di qualunque persona normale, rieducate a diventare cellule capaci di formare osso, quelli che si chiamano osteoblasti, possono diventare in questo modo un farmaco naturale che, ridato al soggetto donatore con una trasfusione quindi autologa, quindi non da persona diversa ma da se stesso, lo aiutano a risolvere, a contenere quello che definiamo malattia, ma in realtà l'osteoporosi è una condizione fisiologica sulla Terra, avviene naturalmente con il passare degli anni, colpendo diverse persone. In Italia si stima che ci siano circa 3 milioni e mezzo di donne e 1 milione di uomini che soffrono di questa condizione, e quindi non farmaci ma cellule del nostro sangue che possono essere rieducate e utilizzate come presidio. Una cosa interessantissima, professor Maccarone, ma quante possibilità e che tempi soprattutto ci sono per realizzare questa cosa? Guardi, se il progetto spaziale, che sfrutterà l'assenza di gravità come un laboratorio di un invecchiamento accelerato, quindi lì l'osteoporosi si manifesta molto più rapidamente di quanto non avvenga sulla Terra. Ecco, se questo laboratorio conferma l'ipotesi del nostro esperimento e consegna dati che hanno una certa solidità, in realtà l'idea di passare alle condizioni terrestri, quindi a persone della terza età, non è lontanissima, perché quello che rimarrà da fare in modo corretto è uno studio non più di laboratorio ma clinico, quindi su un certo numero di soggetti, per verificare se la stessa cosa funziona in condizioni terrestri, e a quel punto potremmo dire che il gioco è fatto. E il gioco è fatto, speriamo in tempi brevi. Lei, tra l'altro, professor Maccarone, visto che stavamo parlando anche di chi resta in città ad agosto, lei resta a lavorare, ma Cape Canaveral, quindi continua ad andare avanti col suo lavoro. Quando si riposa lei? Ma guardi, se tutto va bene, verso la fine di agosto potremmo prendere con la famiglia alcuni giorni di ferie, quindi insomma alla fine recuperare anche un pochino di stanchezza fisica. Devo dire che il vero sacrificio quest'anno è che ho lasciato l'Italia, un'Italia molto calda, ma qui in Florida oltre alle temperature si aggiunge un'umidità particolare, quindi ahimè si soffre un pochino, ma insomma, quindi è ancora peggio, professore. Insomma, in nome della scienza, professor Maccarone, la ringrazio molto e le auguro insomma il possibile più vicino successo di questa impresa, allora, per tutti. La ringrazio molto e auguro una buona giornata a lei e ai suoi ascoltatori. Buona giornata e buon estate anche lì in Florida. Grazie professore Maccarone. generazioni in ciclo, con le loro convinzioni, che mescolano i sogni a una manciata di canzoni. La vita è un uragano che ci strappa le vele, un'autostrada in fiamme con curve di miele. È una tempesta, è un tuffo dentro un cerchio di fuoco. La vita è un gioco, la vita è un gioco. Per molti versi è un gioco, se non ci fossero gli aspetti ludici nella vita sarebbe ben più triste. E vorrei parlarvi di questo parco giochi in provincia di Treviso, in Veneto, che ha solo giostre, delle giostre vere e proprie, senza motore però. Ci sono dei giri della morte, catapulte, e sembra che ci sia un boom di visitatori nei fine settimana. L'inventore è Bruno Ferrin, insieme alla moglie Marisa Zaghis, e lo saluto subito. Ferrin, buongiorno. Buongiorno signora, sono pronto. Pronto. Che cosa si è inventato lì a Treviso? Quindi, come è fatto questo parco giochi dell'osteria ai Pioggi? Ai Pioppi. Sì. No, l'idea non è che dall'inizio sia nata come per lo sviluppo che ha attualmente. È cominciata come un'osteria di campagna. Esatto, poi dopo, anche nel corso di qualche anno, mi sono accorto di avere una manualità, diciamo, particolare, che più o meno mi ha permesso di costruire dei giochi. Ho cominciato quasi per caso, non sapendo neanche cosa fosse la saldatrice. Pensi un po'. Cosa fosse la saldatrice? Invece lei ha creato questo parco giochi con degli attrezzi su cui bisogna fare fatica per muoversi, no? C'è la bicicletta che per la catapulta, poi ci sono, quindi si pedala a gran velocità, poi se invece si vuole stare un po' più tranquilli si può concedere una gara sullo scivolo a tre corsie, niente poco di meno. Sì, esattamente, sì. Sì, no, sono giochi praticamente che coinvolgono lo spettatore, cioè il ragazzo che gioca, si sente coinvolto in prima persona, cioè. E io vedo la soddisfazione e la gioia di questi ragazzi, di queste persone che giocano, perché devono sudare, in poche parole, per far funzionare il gioco devono sudare. Però essendo in prima persona coinvolti, sì, la massima soddisfazione, io dico, perché quando vai alla sagra, vedi che paghi il biglietto, ti siedi, aspetti che la giostra cominci a girare, lì sei in modo passivo, invece qui invece... Quindi lei dice che si devono conquistare queste emozioni con la fatica. Sai che si sentiva meglio da Cape Canaveral che da Treviso, devo dire la verità, a volte i paradossi delle linee telefoniche, Ferrin? Sì. Sì, dica. Dico, lei li ha testati, ci ha provato, che ci ha giocato pure lei evidentemente, no? Normalmente sì, quando io costruisco un gioco, poi dopo alla fine il primo salito sono proprio io, ovviamente, per capire un momentino anche la dinamica, per capire le emozioni che può dare il brivido che può dare questo gioco. E poi di conseguenza ho la conferma che l'idea è buona, perché vedo che la gente si diverte in maniera veramente interessante. L'idea è buona, la gente si diverte, abbiamo detto di questi boom nel fine settimana a Treviso, il parco giochi Osteria ai Pioppi. Bruno Ferrin, buon divertimento allora. Bene, grazie signora, grazie. E non mi chiami signora, mi viene subito l'uveite. Invece adesso vorrei sentire Roberta da Roma. Roberta, tutti da Roma chiamate, Roma è piena di gente, è rimasta in città. Roberta. Sì, allora volevo dire quanto è stato importante ieri a Roma questa iniziativa dei musei gratuiti tutto il giorno, sia quelli comunali che quelli privati ovviamente, e perché tutti, sia di terza età che anche molto più giovani, hanno potuto usufruirne. E questo sarebbe importante più volte durante l'anno, non solo quando fa così caldo. E insomma siamo stati molto bene, molto molto bene. Complimenti Roberta, grazie di averlo detto, ho sentito tanto uno spirito positivo che fa piacere, c'è anche Tiziana. Ma Roma è bellissima, a parte le questioni. Roma è sempre bella, a parte le difficoltà. Grazie Roberta. Tiziana, riesci da Brescia a essere molto sintetica, Tiziana? Sintetica che io, per me andare in ferie è un dispiacere. Amo moltissimo stare in casa mia, con i miei animali, sono proprio serena. Ma potrei anche economicamente andare in ferie, per l'amor di Dio. Però proprio è un dispiacere, guardi. E andare in vacanza è un dispiacere? Sì, indubbiamente. Forse io mi ritengo molto serena a casa mia. Adesso ho finito di fare il mio Pilates, però contribuisco lo stesso col PIL del mio paese, perché amo per esempio comprarmi le mie borsettine super chic, i miei abitini, e me li vedo tutti i giorni. Ecco, questa è una cosa che mi piace, ecco. Tiziana, più contenta e positiva di così, ti ringrazio. Esatto. Tiziana, allora buona continuazione in città, Brescia. Grazie, siete molto gentili, buona giornata. Grazie, Tiziana, ma avete sorpreso, sembra che la gran parte della gente che sta in città è contenta di stare in città, meglio così in ogni caso. Allora, a questo punto ci dobbiamo salutare, quindi ringrazio, alla parte tecnica si sono succeduti Carmelo Lauricella e Paolo Corleoni, in regia c'è Cristian Goldoni, ringrazio Marco Lombardo, Barbara Bianchi, Antonella Migliaccio, Roberta Giordano, a questo punto si ferma, tanto noi ci risentiamo tutti i giorni dalle 8 alle 10 con Ma cos'è quest'estate, ricordatevi i numeri, domani puntualmente svegliatevi, io spero, se metto 3-4 sveglie perché il mio fuso è un po' cambiato, insomma vi aspetto domani alle 8.